bambola che rotola, si chiama Bobo, te lo giuro. Un adulto sorride, ma la colpisce forte. I bambini guardano in silenzio, cambia già la loro sorte. Poi si aprono le gabbie, adesso potete giocare. Ma nel primo gruppo inizia piano qualcosa a degenerare. Calci e pugna e giocattoli, schiaffi tra di loro. Nessun premio, nessun biscotto, solo un cupo coro. E Bandura lo scrive chiaro sul suo tavolo di scuola. Non è nato dentro al sangue, è qualcosa che si impara. Tra schermi, cartoni animati e risate di plastica, la violenza diventa un gioco, una scena, una pratica. Disimpegno morale, spegni il cuore e accendi il canale. Basta cambiare le parole. Io ti chiedo il vantaggio dov'è? Perché picchiarsi fra bambini finché non scende il buio in sé? Qui la mente non basta, serve un fuoco più profondo. Una spinta che non si vede, ma modella il nostro mondo. La chiami libido, volontà di potenza che si espande. Tra l'io finito che soffoca e l'idea di un io che non si arrende. Metafisica che connette l'essere al suo esserci. Come usi la tua energia, cosa scegli di diventare qui? Yeah! Cresciamo con Goku bambino che salta tra nuvole d'oro. Gli ostacoli si alzano sempre, lui li rompe come vetro. Non è un eroe già adulto, è un corpo che si trascende. Io ho finito che sogna un dio e intanto si accende. Super Saiyan God, l'aura esplode in cielo. Diventare più forte per sempre, senza mai trovare il velo. Dove finisce la crescita e dove inizia la follia? Quando per allenarti al limite rischi di perdere la via. Dragon Ball Super, torneo tra universi, gioco crudele, Goku non difende più la terra. Cerca solo il suo livello, spinge il mondo sull'orlo del nulla per un brivido in più. Qualcuno gli chiede piano, ma tu per chi combatti? Tu e Zeno guarda dall'alto con una fede rovesciata. Non è Abramo che obbedisce, Dio che aspetta la chiamata. E Kierkegaard in timore e tremore ci aveva avvisato piano. Quando la fede salta l'etica, il coltello è già in mano. Pasolini la vede.